Radoni News, tutte le voci dell'informazione, a cura dell'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari. Costruire una connessione tra il mondo del lavoro e quello accademico. Questo è l'intento del Master di primo livello in progettazione multimediale e video, che nasce dalla collaborazione tra l'Accademia delle Belle Arti Cignaroli e le Facoltà di Scienze Motorie e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Ateneo Veronese. Direttore del corso Gianmarco Mazzi, già direttore artistico dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Il professor Carlo Tombola, docente di linguaggi audiovisivi. Partner del Master è una casa di produzione molto importante di Verona, che era Multimedia, con la quale io collaboro e ho collaborato per molti anni. E negli anni abbiamo capito che ci mancava un po' il contatto col mondo della scuola, perché il mondo della scuola non prepara delle figure che siano in qualche modo pronte ad affrontare il mondo del lavoro. L'idea del Master è quella di creare le figure professionali già a partire da una preparazione che ha le sue radici nel mondo della scuola, della pedagogia normale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica di Scienze Motorie al numero 045 84 25 127. Michel Mattivi per Raduni News, Verona. Si è svolto presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo il convegno sugli aspetti sociali, legali e sanitari del randagismo, promosso dal gruppo studentesco Taurus in collaborazione con la facoltà. Obiettivo: confrontarsi su una questione delicata che rappresenta tutt'oggi un problema per molte realtà territoriali e individuare gli elementi necessari per una sua accurata analisi e soluzione. Al convegno hanno preso parte Gianni Chiodi, sindaco di Teramo, e Antonio Gatti, presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Teramo. Tra gli interventi, quello del magistrato Gianfranco Iadecola sulle responsabilità professionali del medico veterinario e del veterinario regionale Giuseppe Bucciarelli su anagrafe canina e prevenzione del randagismo, situazione attuale della regione Abruzzo e prospettive future. A concludere l'incontro Fulvio Marsiglio, preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, che ha espresso il suo parere sull'iniziativa. Quello che mi piace sottolineare della giornata di oggi è come questo impegno sia stato sentito anche dai nostri studenti. I nostri studenti che si accorgono di quello che accade intorno a loro e cercano attraverso queste giornate di trovare le soluzioni più adatte per risolvere questi problemi. Appuntamento alla prossima iniziativa, Alessandra Campanile, Teramo. Dopo il successo di Quattro Passi nel Mistero, sulle leggende urbane, la spada nella roccia, i cerchi nel grano e le frodi paranormali, il CICAP Lombardia, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, organizza presso l'Università di Pavia, giovedì 26 ottobre, una conferenza dal titolo Processo alla Sindone. Verrà presentata la storia della Sacra Sindone, dalla metà del 300 fino alle recenti controversie. Le prove a favore o contro l'autenticità, come in un processo, permetteranno di farsi un'opinione e di esprimere un giudizio informato sui fatti. Professor Adalberto Piazzoli, vicepresidente del CICAP. La nostra tesi è che la sindone non è una reliquia autentica. Le prove a favore di questa tesi sono tante, a partire dalla prova scientifica più importante, che è quella della radiodatazione. E per maggiori informazioni www.cicap.org. Da Pavia per Raduni News, Andrea Taccani. In Toscana si torna a parlare di scienza con la terza edizione del Pianeta Galileo. La manifestazione scientifica, inaugurata il 16 ottobre a Firenze, avrà luogo in 10 province toscane fino al 17 novembre. Pianeta Galileo prevede un programma di ben 300 eventi, ricco non solo di conferenze, ma anche di tavole rotonde, proiezioni, spettacoli teatrali e visite guidate che vedranno le scuole come sedi principali delle attività. La manifestazione si propone di avvicinare i partecipanti allo spirito della ricerca scientifica in modo semplice, diretto e comprensibile. L'iniziativa è promossa dal Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con gli assessori regionali all'istruzione e alla cultura, province, comuni e atenei della regione. Per ulteriori informazioni www.pianetagalileo.it. Da Siena, Ginevra Mattioli per Raduni News. Rassegne cinematografiche, concerti, spazi di interazione tra culture diverse, percorsi didattici alternativi. Si chiama Una carovana attraverso il Sud, il progetto che prenderà vita da novembre nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania. L'iniziativa è curata da un gruppo di studenti della facoltà nell'ambito del laboratorio di progettazione, sperimentazione e analisi di politiche e servizi alle persone. Obiettivo: promuovere la conoscenza di usi e costumi dei gruppi etnici presenti nel territorio. 3 le sezioni previste: Nessuno è straniero, che predilige cinema e musica, Tempi, ritmi, rituali durante il convivio, che punta all'aggregazione universitaria, e infine Altra cultura, ovvero canali alternativi di comunicazione tra studenti e prof. Gianluca Reale per Raduni News da Catania. Professori e ricercatori tutti i giorni, sceneggiatori, attori e tecnici prestati al teatro per una sola sera, sono stati proprio alcuni rappresentanti del corpo accademico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo Foggiano a cimentarsi il 24 ottobre sul palco del Teatro del Fuoco di Foggia per raccontare la storia di Plinio il Vecchio, lo scienziato morto nel 79 d.C. durante l'eruzione del Vesuvio. Morire di scienza, il Vesuvio, Pompei e l'ammiraglio Plinio il Vecchio è stata la particolare pièce teatrale ideata dal professor Giovanni Cipriani, ordinario di lingua e letteratura latina, per sensibilizzare sul delicato e importante tema della ricerca scientifica. Un'iniziativa che è certamente piaciuta, visto il discreto consenso di pubblico che i novelli attori sono riusciti ad ottenere. A Trento, il 17 ottobre, si è inaugurato l'anno accademico 2006-2007. Vi era grande attesa per la cerimonia, in quanto coincideva anche con l'inaugurazione della nuova ala della Facoltà di Giurisprudenza, curata dal famoso architetto Mario Botta. Inoltre, tra gli ospiti di eccezione, figurava il ministro degli interni Giuliano Amato. La limitazione dei posti della nuova aula magna ha fatto sì che solo pochissimi tra gli studenti potessero assistere alla cerimonia e alla lezione del ministro sulla Costituzione europea. Molti presenti erano infatti parte dell'autorità e della stampa. Grande curiosità tra gli studenti era rivolta ai nuovi locali della Facoltà di Giurisprudenza, che però, complice anche l'imponente sistema di sicurezza per l'incolumità del ministro, sono rimasti quasi off limits nel giorno dell'inaugurazione. Qualche malcontento si è elevato inoltre poiché i locali appena inaugurati non saranno agibili e operativi prima del prossimo gennaio. Per Raduni News da Trento, Denis Giordano.